Giulio. Adesso così sembra. Poi non riesco a stare né con il cazzo, né seduto, né in piedi. Oh yeah! Un pensiero, capito? E mi dure, specialmente i nati che mi dure. Poco già ti ha pigliato a durori, compreso, quando uno sta a durori non riesce a casa di nessuno di rimanere, nessuno, è un macello quando è così. E' bello questo, quando sono andato a lungo, non sono andato, ma ha pigliato questa influenza, boh, a me ne lì, non è possibile, vabbè, dove sono andato? Per la spesa sono andato. Era quel giorno che sono andato alla Conad, forse era quello, con tutta la gente che c'era, e magari mi ha preso lì, mi hanno contagiato il kiwi. E la più sicura è giù, è la più sicura. E vabbè, se cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Non so cosa dirti, purtroppo è così. Non posso fare nessun movimento. Se mi avete fatto una giusta roccia, forse era stato meglio, voglio dire, come ti sono qua. Mi pare tutta roccia, io lo so. Ed è tutta dolore, quando si fa così è un macello. Perché non riesci a stare bene in nessun modo, capito? Io sono tutto raffreddato, ho la tosse. Sono già più di una settimana così con questo orecchio così. Gli ho messo anche il cotone, gli ho messo poco fa. Infatti sento più il masso. Ma non avere voglia di niente, sai cosa vuol dire niente? Oggi a malapena sono riuscito a farmi la barba stamattina presto. Quando mi sono svegliato prima della terapia, a malapena sono riuscito a farmi la barba. Perché non posso fare il minimo movimento, non posso guardare la televisione, non posso leggere, non posso fare niente. Boh, cosa vuoi che dica? Ci paghi sul dolcicollo greo, mamma mia. Già lo credo, e non ti puoi muovere. Vabbè, presenza, non va a passare. Non va a passare, boh, e allora mi gioco. E dici, Nimi, l'influenza dura 8 giorni, se la curi, se non la curi dura 8 giorni. Ma se sono qui a destra e più, così, sono 10 giorni buoni, così in questa situazione, boh, non è possibile, ma comunque. Vabbè, pazienza, vai, è una che la puoi pigliare con nessuno. Non te la puoi pigliare con nessuno, no, che vuoi fare? Già passa, la passa sarà in via di guarigione, tra un paio di giorni non avrà più nulla, se sei già 10 giorni così. Un po' già mi ha alleggerito un po', ma comunque è sempre pesante la situazione. Chissà, magari stanotte, se riesco a resistere sino a tardi, boh, sarà difficile, comunque vedremo, non lo so. Infatti, quando uno non sta bene, non riesce neanche a resistere. È una brutta situazione, si pare così, però l'influenza è fea. E la frequenza come sta andando? Non è manco garanzia di manco ascoltavo di capire, boh, nessuno, non avevo proprio voglia minimamente. E quindi mi mira. E buco non è che sono quasi niente assai, ma era acceso qua e stavo cucinando io e ti ho sentito, capito? Ho chiamato pure io a vedere se c'era qualcuno che ha inteso la melinzana. Vabbè, hai un botto la musica, hai un botto, a vedere se vede qualcuno che mi intende. Ecco, forse mi hai sentito con la musica. Sì, ho sentito la musica, ho sentito. Non ho chiamato per quello. Era acceso, però ero in cucina io. Ho sentito la musica, ho chiamato per quello. E abbiamo conosciuto... Ma gli la sigacuna ha giudito, e lui ha chiamato. Siamo innamorati e... Se no, ma ha chiamato, vabbè. purtroppo così e cosa vuoi fare? Bel fine 2023, mi babbo, che è pitina, non è possibile. Ma speriamo che sia migliore il 24, quella che ti dica. Speriamo di sì. Poi abbiamo i nostri tre. L'anno nuovo ci porti qualcosa di meglio, da, diciamo, dell'anno scorso. Vabbè, quello sì, non è che mi interessa per tanto, perché intanto già non mi manca niente, non pretendo niente, però almeno la salute, quella sì, quella già la pretendo, ma per un resto non mi interessa, regali ne ho ricevuto tanti, per cui non mi interessa avere niente di più, e poi quando va giù qualche cosa che desiderio me la posso comprare, non è un problema. Per cui non si pensa a quelle cose, quello che conta è la salute. E infatti dicevo in quel senso io, capito, in quel senso stavo dicendo io. Appunto, si cresce come immaginare. Troia, e vabbè. L'unica cosa che ho fatto di non andare, che ho mangiato abbastanza, perché c'è stato una mezza giornata di tempo che stavo bene, stavo meglio, no, bene, e allora ho potuto prontare, cenare insieme a tutti gli altri, anche a Natale, il giorno di Natale, avevamo ospiti qua, ma io ero molto male, comunque è andata bene lo stesso. Infatti si sente anche dalla voce che si è abbattuto, diciamo, là. C'è una voce, ohia, c'è una voce, con il cazzo non mi posso girare dalla parte che vengo di te e dell'orgoglio. Cosa vuoi che ti dica? Se mi devo alzare dall'altra notte, mi vuole la gruppa a pesamini. Cosa vuoi che ti dica? Arboni si è risciato travagliando, giù, cata, non è risciato a duro riuscì. Probabilmente no, probabilmente così. Però anche quello, la vita sedentaria, anche quello è importante, anche quello. Ma cosa fai? Cosa fai? Da dove? Anche se dovessi uscire, quando esco, dove vado? Vado a Sassari, dai, no, qui faccio quattro passi, poi rientro, e da voi la sera non esco a lungo, posso dare la poltrona o di un vano, dare di un vano la poltrona, solo così. E mia moglie mi sgrida lo stesso, perché non vado da nessuna parte, solo se sono costretto esco, se no non ve ne gana, no, giù. Infatti cosa? E poi se ti senti male, cosa vai a andare in giro? Poi, capita, tu pensa che se mi vengo a guidare non potrei nemmeno guidare, ma che non posso andare un godo da una parte dall'altra, come faccio a vedere la strada? Devo guardare sempre dritto e a fianchi, come ti posso mai dare? Infatti, se non ti vuoi muovere, sarebbero tantissimi. Speriamo che passi in fretta questa cosa. Amici, a quattro anni. Io pure non è che sono messo bene. D'altronde così, vuol dire che dobbiamo essere così, da. Andava bene. Oh, yeah. Vabbè, infatti, quando mi sento meglio devo dire quattro parole a un ruffiano della frequenza. Quando mi sento meglio devo dire quattro parole, così alla salta proprio. E non lo sai che bisogno, puruissi. A un miserabile, anzi, devo dire che è miserabile in tutti i sensi. Comunque, già per tempo, non vado per presso ancora. Ebbene, a controllare la parete sei andato una salita. Sì, già giù. Cosa vuole se così vedi? Passa al forno, e per quello devo andare a controllare ogni tanto. Capito, lo tampone con le lenticchie e via dicendo. Anche noi, anche mia moglie sta preparando qualcosa del genere, dai. Vabbè, dai, comunque. Grande pronto se lo mangiamo, ma non manco visto di nostro. Infatti, non manca mezzo di cambo. Quando mangiamo è tutto pronto giù. Perché effettivamente. Certo. vabbè, noi mandiamo quella spesso la una, la unione 4, una cosa del genere. Da voi stava la visita tutti, la cena della notte, quella dura fino a tardi. E vediamo un po'. Buongiorno. Buongiorno, avanti chi è? Che non ti ho riconosciuto. Gaffa, ciao Giulio, buongiorno, ben ascoltato. Ciao anche a Natalino, Franco da Sorso, avanti a te Giulio. Ciao Fra, ciao. Ben ascoltato anche a te. Io già ti sento bene, tu magari mi senti male. Io ho una voce tutta una testa parata, che non so bene già da una decina di giorni. Vabbè, siamo stati un po' tutti così, anche io ero 7-8 giorni ero così, mi ha fatto anche qualche giorno a letto, influenza, niente di grave, dai, speriamo che mi guarire in fretta, Giulio, avanti Natalino. Ciao Fra, ben sentito anche a te. Capo, vi ho sentito, stavo spazzolando e sono entrato almeno a salutarvi per farvi gli auguri. Ricambiati al 100%. Cambiato la vita di una famiglia. E io ogni tanto mi sposto che sto controllando roba in forno, capito? Lo sai, messi in Russia. Capo, controlla, che se brucia poi rimani senza pranzo. Avanti Giulio. Ok, bra, anch'io ti faccio gli auguri, dai, così almeno ci anticipiamo già da adesso, anche che faccio di domani, cioè facciamo già da adesso, non è un problema. E vabbè, evitando è stato un po' carino, un po' triste la questione, triste nel senso che non avevo voglia e dunque non ho potuto mandare troppi auguri come facevo sempre, come ho sempre fatto tutti gli anni. Ma appena sono riuscito a rispondere a quelli che mi hanno mandato gli auguri tramite WhatsApp, ma appena sono riuscito a rispondere a quelli, poi tutti gli altri, non era possibile, perché non era possibile, non avevo voglia. Capo, me lo immagino, perché ti sento un bel affaticato parlando, ti sento. Vabbè. Tipo dell'influenza. Ok, avanti. Faccio un altro passaggio, poi me ne vado anche io, perché sto preparando, ho fatto il fuoco. Oggi che è una giornata che si può fare, e allora facciamo qualcosa al rosso. Avanti a te Natalino. Mi sono spostato per controllare, infatti Giulio era spaventato che ero scappato, gatto, invece no, ero in cucina. E allora, magari non ti ha sentito, ti ha rilanciato, non ti ha sentito, detto quello lì. Ok, dai signori, che se no qua devo tenere a bada anche il fuoco e le cose, se no andiamo a male qua. Ciao Natalino, buon proseguo, buon anno, buon tutto, dai, sperando di essere meglio quest'anno. Avanti anche a te Giulio, tanti auguri anche a te, di buon anno. Ci sentiamo magari o alle prossime, oppure se coincide più tardi. Mi prendi Giulio, io faccio QRT, vi ascolto Michelino, poi cambio. Ok Fra, ciao, tanti auguri anche a te e famiglia, dai, che sia un nuovo anno migliore, soprattutto di questo, anche perché io sinceramente non è che mi posso lamentare, però migliore in tutti i sensi, soprattutto sperando che no, che questi delinquenti che stanno facendo la guerra la smettano di fare gli imbecilli, così almeno saremo un po' meglio tutti, d'accordo, ciao Fra, alle prossime, ciao. E ciao Franco, dai, auguri di buon anno e che sia quello che viene meglio di questo che se ne sta andando, dai, auguroni a te famiglia. Giù, io mi sposto lo stesso, che no, bisogna controllare, sennò magari si brucia. sia vero. La situazione. Ci sentiamo magari più tardi se coincide. Alle prossime, dai. Salutoni anche agli ascoltoni che ci saranno sicuramente. Ciao a tutti. Ok, ciao Natali, ciao. Se non ci sentiamo, buon anno anche a te. E famiglia, alle prossime, dai. Ciao, ciao, buon lavoro in cucina, ciao. Упрощение и ускорение документа оборота в Белорусской и Ленинской области. Курьерская доставка по России. Сканирование координации документов почты России. Служба двора. На вопросы отвечаем только по телефону. 7-8-2-7-8-9-1. Приезжала! Сука, дьявол! Bambolino! Giulio!